Ma insomma, lei la pella di Laban la metterebbe nel calendario Pirelli? Quella di Sandokan sì, a quella di Sandokan darei la copertina. Continuano gli appuntamenti al Piccolo Teatro di Milano. Questa volta incontreremo Giuseppe Mussari. Racconterà qual è stato il suo libro di formazione e sceglierà le pagine per il futuro da lasciare in eredità alle nuove generazioni. Lo farà sabato 7 luglio alle 17 al chiostro del Piccolo Teatro in via Rovello a Milano. Per partecipare è possibile prenotarsi sul sito radio24.it. Pagine per il futuro, Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 insieme per una serie di incontri con i personaggi, i libri, i valori.